fasten your seatbelts. Don't forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelts. Are 21.07, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Prove tecniche di trasmissione da adesso sino alle 22.30 circa. Da quell'ora in poi 25 o'clock sino nel cuore della notte. 0649 1750 è naturalmente il contatto telefonico. www.ondarossa.info, utile sia per il nostro streaming e per leggere le notizie, le corrispondenze contenute nel sito stesso. ondarossa@ondarossa.info è l'indirizzo di posta elettronica. Domani playlist e podcast sia sul sito della radio sia sulla pagina relativa a questo spazio, prove tecniche di trasmissione / disorder. Infine, ma è il numero più importante, 6180 4001, è il numero di conto corrente postale storico intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Velevolci 56 00185 Roma, perché dopo la vincente campagna di crowdfunding ovviamente Onda Rossa necessita sempre di energie nuove per la sua sottoscrizione, per le sue sottoscrizioni, per la sua vita di autogestione. Salutiamo Alessandra qui da Roma, Maya sempre dall'altra parte dell'oceano in Argentina, Like Awake, valente musicista qui da Roma, un saluto ad Alessio, lo stesso Ugo qui da Roma. Tornando al di là dell'oceano, Carlos Silva from Mexico City. Tornando a Roma, Luciano, Fabiola, Riccardo da Taranto, Nicola dalla Sardegna. E naturalmente Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Ebbene, noi iniziamo con Coagulant, progetto italiano di Fabio FK Drone. E quindi ci inoltreremo negli abissi profondi della dark ambient di questo artista italiano, ormai trapiantato a Londra da un po' di tempo, che ha fatto a metà uno split insieme a Isaac di Fabrizio Matrone, compagni insieme una volta nel progetto Matter. La parte relativa a Coagulant si chiama Lucifer Transit Over Jupiter e la traccia in questione è Opposition Within Inside the Sun. i drones spettrali siderali di Coagulant. Effettivamente il fascino degli spazi infiniti dà non so che di proiezione in alto. E non mi meraviglia che per esempio Like Awake possa apprezzare quest'opera. Peraltro di Like Awake già posso dire che la prossima settimana manderemo il suo ultimo lavoro. Salutiamo di nuovo Stefano. Come Davide è ancora al lavoro e quindi impossibilitato a connettersi. Il tutto è estratto da questo Lucifer Transit Over Jupiter, Coagulant di Fabio, FK Drone. Ebbene, noi adesso facciamo un salto a Napoli, naturalmente nel caso di Raffaele Pezzella e del suo progetto Sonologist. Ormai conoscete tutti Raffaele, instancabile agitatore culturale, realizzatore di immense compilation che ci fa conoscere musica da tutto il mondo, ma anche lui appunto ha questa sua avventura autonoma giunta con questo lavoro dal nome Silencers, The Conspiracy Theory Dossier, che esce anche in contemporanea con la Cold Spring, un'etichetta gloriosa di origine britannica. Deep Black Programs e Close Circuit, le due tracce che ho scelto per questa sera per il nostro Sonologist. Due estratti dunque da questo Silencers, l'ultima fatica di Sonologist di Raffaele Pezzella, l'instancabile Raffaele Pezzella, che appunto gestisce questo progetto nella maniera migliore possibile, lo salutiamo. Album che esce per la Cold Spring Records, etichetta proveniente dalla United Kingdom. Tappeti immobili, oscillazioni provenienti da altri mondi, altre dimensioni, un po' metà tra il trattato scientifico ma anche astratta psichedelia. Queste sono anche note assai precise, devo dire, della stessa Cold Spring Records. Sonologist da Napoli. In un tratto, in questa ultima traccia, la seconda, esattamente Closed Circuit, c'è stato un momento che mi ha anche ricordato un passaggio di un vecchio brano di Cyndi Talk, del suo secondo lavoro, In This World, mi ricordo si chiamava, un album dell'88 e che iniziava con questa sorta di simil violino. Noi andiamo avanti, un salto nel nord Europa, andiamo in Svezia, anche se in realtà andiamo tra la Svezia e la Russia, una ottima collaborazione tra Roitov, progetto russo, e Deutsche Nepal di Lina Baby Doll, ben più noto a chi ci sta ascoltando magari. Salutiamo Fabio FK Drone e ripetiamo per l'appunto che domani, per chi non potesse e volesse naturalmente, ci sarà il podcast e la playlist. Tornando a Roitov e Deutsche Nepal, è uscito da poco una eccellente collaborazione che ha dato alle luci questo Heat in the Dust, un interessantissimo lavoro, uno strano lavoro quasi di electro industrial. Presumibilmente le composizioni sono soprattutto di Roitov e la voce, naturalmente, la bellissima voce è quella di Lina Baby Doll. Vero nome Peter Anderson, un classico della Svezia, ce ne saranno milioni di Peter Anderson, tra cui il Peter Anderson dei Rise on Death. Allora ci ascoltiamo Amphibian Shadow da questo Heat in the Dust. Dunque, un'eccellente collaborazione tra Roitov, un progetto russo, e Deutsche Nepal nella persona, ovviamente, di Lina Baby Doll di Peter Anderson. Quindi, una fascinosa e a tratti anche struggente Amphibian Shadow, la seconda traccia di questo lavoro, che si sviluppa più o meno su queste sonorità così, diciamo, low tempo, lento, elettronico, con questi scenari così, così mesti. Un disco consigliatissimo questo, Eating the Dust. Salutiamo intanto Buen Lupo dal Portogallo, esattamente da Porto. Thank you. Questo era Dropping Crystal, per chi non l'avesse riconosciuti, erano The Third Mind Movements, l'ultimo lavoro del 2009, praticamente l'ultimo lavoro, già che poi l'anno successivo purtroppo Peter Christofferson, uno dei fondatori, ci ha lasciato. Lo ricordiamo anche come fondatore dei Coil. Il resto, è inutile dirlo forse, era presentato da Genesis Breyer Peorage, cose inferi tutti, e Chris Carter. Qualche anno di silenzio e poi sono tornati negli anni 2000 con degli ottimi lavori, tra cui questo. Intanto sono le 21.48, gli 87.9 di Radio Onda Rossa con prove tecniche di trasmissione. Ricordo ancora una volta il sito, che è www.ondarossa.info. Mi fa piacere che sia particolarmente frequentato questa sera. Torniamo in Italia e un progetto al femminile. Trattasi di She Spreads Sorrow di Alice Kundalini. Tre lavori al suo attivo e lei si muove in un ambito che va tra il death ambient e l'industrial noise. Abbiamo qui il suo ultimo lavoro dal nome Midori. Ci ascoltiamo Escape e Who Are You Midori. Thank you. ottimo ritorno per She Spread Sorrow di Alice Kundalini. Questo è il suo terzo lavoro dal nome Midori. Tre album molto interessanti, tutti e tre attraverso la Cold Spring, e quindi ritorna la Cold Springs come nel caso di Sonologist. E Midori è un'ispirazione che viene da un fumetto giapponese di Maruo, e quindi una storia di incubi, angosce, morte e vita e fughe. Quindi è un concept album.